Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo anche della manovra, chiaramente aspettiamo il via libera definitivo della Camera, ma il testo non sarà modificato dopo il maxi emendamento che è stato approvato e votato dal Senato nella notte tra venerdì e sabato. Tra l'altro, come molti di voi sanno già, il maxi emendamento è composto in realtà appunto di un solo articolo diviso in 755 commi e recepisce varie modifiche apportate in buona parte dall'esecutivo e in base anche a quelli che sono stati i lavori delle commissioni parlamentari. È una manovra che vale 32 miliardi di euro con altri 5 miliardi in deficit. E in queste cifre è già incorporata comunque la correzione da 4 miliardi e mezzo di euro, che vale lo 0,3% del PIL richiesta da Bruxelles, ed ecco perché è stata tagliata sostanzialmente di 3 miliardi e 3 la dotazione del fondo cosiddetto taglia tasse. L'effetto complessivo delle misure, siccome parleremo oggi soprattutto delle misure, della componente fiscale di queste misure, non incide sulla pressione fiscale complessiva. È prevista in lievissimo calo dal 43,4% al 43,3% e poi però tornerà al 43,6% nel 2016, senza tener conto dell'effetto delle eventuali clausole di salvaguardia, che sono quelle clausole che scattano in automatico laddove non dovessero essere reperite le coperture. Ricordo, ma ne avremo modo di parlarne ampiamente soprattutto nella seconda parte del programma, ricordo, dicevo, le principali misure: totale deducibilità dell'IRAP dall'IRAP del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato, possibilità di anticipare il 50% del TFR in busta paga, che però verrà sottoposto a tassazione ordinaria, quindi sull'aliquota più alta. Conferma per il 2015 del bonus IRPEF per gli 80 euro per i redditi fino a 26.000 euro. Proroga al 2016 del blocco degli aumenti delle aliquote locali, ma in questo caso, per esempio, mancano le compensazioni agli enti locali per il mancato gettito. Questo in attesa dell'introduzione della local tax, che slitta al 2016, e poi l'aumento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione, che va dall'11,5% al 20%, l'estensione della reverse charge, e di questo parleremo. La reverse charge è sostanzialmente l'inversione contabile dell'IVA ai fini anti-evasione. In pratica, praticamente, la tassa viene versata direttamente allo Stato e non al fornitore della merce o del servizio, che poi deve girarla. E quindi l'estensione della reverse charge anche al settore dell'edilizia, a quello energetico, alle imprese di pulizia e alla grande distribuzione. E poi vengono dichiarati in esubero il 50% dei dipendenti delle province e il 30% dei dipendenti delle città metropolitane, che verranno messi in mobilità e si cercherà di riassorbirli in regioni, comuni o amministrazioni locali. Di questo parleremo anche perché c'è, come tutte le leggi finanziarie, ma in particolare questa, ha elementi in chiaroscuro. Per esempio, ci sono dei vantaggi che stanno emergendo in maniera sempre più chiara per le assunzioni a tempo indeterminato rispetto alle assunzioni a tempo determinato o alle collaborazioni. Ne parleremo, dicevo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Altri temi riguarderanno il caso del Monte dei Paschi in borsa, ma non solo in borsa sta perdendo e pigliando quindi una scoppola del 7,32%, ma ci si interroga molto sul futuro della banca. Allo stesso modo parleremo anche, per quello che riguarda i dati di carattere più macroeconomico e congiunturale, di quanto sta emergendo sul fronte russo, perché l'export italiano verso la Russia è crollato drammaticamente. E oggi c'è di nuovo un rublo in leggero recupero, però l'export fuori dall'Unione Europea è sceso dell'1,8%, ma il grosso di questo calo si chiama sostanzialmente Russia. Dicevamo della borsa, al di là del Monte dei Paschi, meno 7,30%, Finmeccanica meno 1,70%, Eni meno 1,5%, Saipem meno 1,20%, positiva invece la Popolare Emilia Romagna del 3,87%, Autogrill del 3,60%, Moncler del 2,80%, Prismian del 2% come Gitec, l'1,80% lo guadagna Mediolanum, e anche A2A l'1,5% rialzo di UbiBanca, UnipolSai e Intesa San Paolo, ma anche CNH Industrial. Complessivamente la borsa guadagna lo 0,20% come Parigi, Francoforte invece fa più 0,70%, Londra più 0,50%, l'America più 0,40%. L'euro è debole, nel senso in calo, 1,22,6. E allora rapidamente, come sempre, le altre notizie in breve. Altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda il petrolio, a New York è a $56 al barile, quindi di nuovo in discesa di quasi 2 punti percentuali. Per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, la banca centrale russa ha annunciato oggi di aver messo sotto tutela la Trust Bank, che è un'importante banca del paese, che sarà ricapitalizzata con 30 miliardi di rubli, circa mezzo miliardo di euro, 430 milioni di euro, per evitare il fallimento. E poi sempre la Russia, sempre sul fronte che conosciamo, cioè delle sanzioni con l'Europa e con gli Stati Uniti. Allora, la Russia ha annunciato oggi l'introduzione imminente di barriere doganali per ridurre le esportazioni di cereali, sperando così di far aumentare la domanda e far abbassare il prezzo sul mercato interno, che è dopato, sostanzialmente drogato dalla caduta del rublo. Perché insomma, la caduta del rublo rende le esportazioni più convenienti per gli agricoltori, con la conseguenza che poi si è rialzato moltissimo il prezzo del grano a livello interno, nonostante l'annata sia un'annata da raccolto quasi record, uno dei più abbondanti mai registrati in Russia. E la Coldiretti stima in 1,2 miliardi il calo dell'export, poi ascolteremo anche un'intervista su questo, il calo dell'export italiano verso la Russia. In effetti la cifra è più o meno, se immaginiamo un 10%, 15% di calo, pesano le sanzioni e pesa chiaramente anche il crollo del rublo. Ora, è probabile che il calo complessivo sia anche superiore al 10%, perché il 10% era una media dei primi mesi dell'anno. Poi sappiamo che la situazione si è aggravata ulteriormente in Russia, ripeto, sia per le sanzioni ma anche perché quando il rublo perde il 60% del suo valore nei confronti dell'euro, è chiaro che diventa molto più costoso per i cittadini russi il consumo di prodotti anche del Made in Italy. Tant'è che a novembre il nostro export verso la Russia ha fatto meno 23%, mentre è andato bene negli Stati Uniti più 15%, nei paesi OPEC, produttori di petrolio più 4%, in Cina più 2,2%. Vedo già molte domande sulla legge di stabilità, arriveremo anche al vantaggio del bonus, il cosiddetto sconto sul costo del lavoro, che arriva fino a un massimo di 8.060 euro a partire dal 2015 su tutti i nuovi contratti a tempo indeterminato. Praticamente il calcolo è presto fatto, se assumi 4 nuovi dipendenti paghi con questo sconto, paghi solo per 3, mettiamolo in questo modo. E tra l'altro lo studio della CISL, per cui sostanzialmente a fronte di una retribuzione lorda pari a 26.000 euro, le imprese pagheranno da 5.000 a 8.000 euro in meno rispetto alle altre tipologie contrattuali, quindi conviene rispetto a contratti analoghi a tempo determinato o parasubordinati. La convenienza resta anche salendo di reddito, perché se la retribuzione lorda è di 40.000 euro, il beneficio per l'impresa ad assumere con un nuovo contratto a tempo indeterminato è pari a circa il 16% del costo corrispondente a un contratto a termine, cioè risparmia il 16% di quanto non le costerebbe fare un contratto a termine. Allora, è chiaro che l'obiettivo del governo è molto ambizioso, il ministro dell'economia Padoan citava addirittura 800.000 nuovi posti di lavoro, ed è anche chiaro che se l'impresa non ha prospettive di crescita ma solo gestione del quotidiano, va a prendere un contratto a termine piuttosto che un tempo indeterminato. Però per tutte le imprese che invece stiano valutando una crescita, un'espansione su progetti di medio termine, quindi su piani industriali di medio termine, diventa conveniente sia l'assunzione della fascia 26.000 euro, ma anche per fasce fino a 40.000 euro di reddito. L'antitrust italiano ha multato, quindi l'autorità garante della concorrenza del mercato, su segnalazione dell'Unione Nazionale Consumatori e di Federalberghi, di alcuni consumatori, ha multato TripAdvisor, che è la Bibbia per chi cerca, insomma, Bibbia non lo so perché è un po' offensivo per la Bibbia, intendo dire, però diciamo è il sito di riferimento per chi cerca alberghi, ristoranti, li vuole comparare e quant'altro. Perché? Perché ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale realizzata a partire da settembre 2011 sia da TripAdvisor che da TripAdvisor Italy. Ha vietato la diffusione e la continuazione di una pratica commerciale consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate sulla banca dati telematica degli operatori. E ha chiesto che vengano adottati strumenti e procedure di controllo adeguati a contrastare il fenomeno delle false recensioni. Cos'è che contesta l'antitrust? Contesta il fatto che TripAdvisor pubblicizzi la propria attività mediante claim commerciali, spot commerciali, che in maniera particolarmente assertiva enfatizzano il carattere autentico e genuino delle recensioni, inducendo, leggo testualmente, così i consumatori a ritenere che le informazioni siano sempre attendibili in quanto espressioni di reali esperienze turistiche. Le condotte contestate risultano idonee a indurre in errore una vasta platea di consumatori in ordine alla natura e alle caratteristiche principali del prodotto, anche perché si è scoperto, la denuncia partiva da lì, che alcune di queste recensioni erano false, e sappiamo che dietro TripAdvisor, che è uno strumento utilissimo, che tutti abbiamo, almeno immagino molti di voi abbiano utilizzato almeno una volta, però il rischio di avere pratiche poco trasparenti, sia nel senso di recensioni false che vanno a danno del recensito, sia nel senso di recensioni false perché ci si mette d'accordo con l'albergo, il ristorante, anche questo è successo. Abbiamo avuto anche segnalazioni di casi in cui si praticavano sconti a fronte di una recensione positiva per la struttura turistica, ripeto, albergo, ristorante che fosse. Allora tu devi stare attento nel dire che le informazioni che tu pubblichi sono completamente veritiere, o aumenti la sicurezza o devi anche tutelarti, dire attenzione, ci potrebbero essere delle informazioni false e strumentali. Allora, 349-238-NO, oggi notizie sugli sprechi degli enti locali. Ve li risparmio, stiamo andando verso Natale, le faremo spero non domani, anche se si stanno accumulando, poi a un certo momento dobbiamo rilasciare tutto l'archivio e iniziare a raccontarle, però oggi ve li risparmio. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Ripartiamo a inizio settimana dalla Russia, dove appunto una settimana fa esatta, era il 15 dicembre, il rublo crollò, il più forte calo dal 1998, quando però la Russia andò in fallimento del credito, e l'aumento dei tassi di interesse. La situazione si è appena calmata, la borsa di Mosca ha recuperato, però appunto la situazione, come raccontavamo con i dati sul commercio Italia-Russia è tutt'altro che in via di normalizzazione. Allora, situazione rispetto all'emergenza di lunedì scorso leggermente più calma. Il cambio tra rublo e euro è tornato sotto quota 70, 69 rubli per un euro. La borsa di Mosca ha un po' recuperato, la banca centrale ha messo su tutela appunto la Trust Bank, però faccio notare che nell'ultimo anno la banca centrale di Mosca ha utilizzato riserve per 100 miliardi di dollari per cercare di contrastare inutilmente, o meglio non sappiamo cosa sarebbe successo se non li avesse utilizzati, ma dicevo per contrastare la caduta del rublo che pure non si è fermata. E c'è una situazione abbastanza di impasse in Russia, perché l'inflazione è molto alta, è sopra il 7%. Il PIL l'anno prossimo è previsto in calo e non più in crescita, gli ultimi dati di un mese fa, e quindi entrerà in recessione la Russia, e nel frattempo hai una valuta sempre più debole e un prezzo del petrolio che comunque è in netto calo, e sappiamo che la Russia ha petrolio e gas come principale fonte di export su tutti i mercati. Ne risentono i paesi dell'Unione Europea, dicevamo, a novembre il nostro export ha fatto meno 1,8%, meno 23% in Russia, l'embargo pesa tantissimo, ma non solo. Come ha spiegato alla nostra Livia Zancaner il responsabile economico della Coldiretti, Lorenzo Bazzana. Le cause sono innanzitutto l'embargo, che è quello che è iniziato dal 7 di agosto e che vieta appunto l'esportazione di alcune tipologie di prodotti verso il mercato russo, soprattutto quelli agroalimentari. Agosto-settembre, che sono due mesi in cui si può appunto vedere il dettaglio nello specifico, abbiamo circa 18 milioni di euro di perdita sull'agroalimentare, su prodotti come formaggi, come ortofrutta e come prodotti a base di carne. Poi è chiaro che a questo e anche ad altri prodotti si è venuto ad aggiungere il discorso del crollo del rubro, e questo evidentemente poi ha un problema di riduzione di quello che è il potere d'acquisto del consumatore russo. Ma è la conferma di un trend, nel senso che il calo si era già registrato nei mesi scorsi? Il calo ovviamente c'era già nei mesi scorsi, però man mano che adesso i dati statistici diventano disponibili ovviamente c'è la conferma di quelle che erano delle sensazioni. Teniamo presente che purtroppo a questo si aggiunge un'altra considerazione, che è quella del turismo, ovvero sia il turismo russo in Italia, che negli ultimi anni comunque si è consolidato e si è rafforzato come uno di quelli diciamo più importanti e interessanti, viene anche esso messo in difficoltà proprio da questo indebolimento del rublo, e poi il fatto che comunque se i turisti russi arrivano in Italia, poi una volta che sono nel loro paese vorrebbero trovare quei prodotti che hanno assaggiato, che hanno provato nel nostro paese, quindi il fatto di avere l'embargo che blocca le esportazioni è sicuramente un ulteriore problema. E le conseguenze di tutto questo, noi stimavamo sul 2014 1,2 miliardi di export diciamo così incollati, quindi ridotti. È chiaro che nel 2015, se non ci saranno delle situazioni differenti dal punto di vista dei rapporti tra l'Unione Europea e la Russia, purtroppo dovremo cercarci degli altri mercati, dei nuovi mercati, sperando che possano essere importanti e interessanti, come si stava dimostrando il mercato russo. Allora, siamo in collegamento con il direttore di Partner Number One International Strategic Development Agency, Eugeni Yudkin. Buonasera. Buonasera. Sentiamo vari ospiti sul tema Russia, che è il tema che ci sta accompagnando, ahimè, a questo finale d'anno. Dunque, secondo lei, quello che sta capitando negli ultimi giorni, compreso oggi, è una normalizzazione o è semplicemente in qualche modo una pausa, ma tutti gli elementi sono ancora sul tappeto, quindi tutti i rischi che venivano illustrati una settimana fa sono ancora presenti? Direi di quello che è successo settimana scorsa, come lei ha detto lunedì, martedì, è una diciamo quasi un, come si dice, force majeure o come incidente di natura, diciamo. Io ho spiegato in uno degli articoli settimana scorsa che questo è, diciamo, è piccoli conseguenze di, che sono moltiplicati insieme hanno causato quello che è successo settimana scorsa. Adesso non so se stabilizzazione, direi proprio di sì, perché anche secondo me rublo ancora, cioè, troppo debole rispetto al suo valore e quindi potrebbe essere ancora leggermente rafforzarsi, ma non troppo, perché ci sono altri fattori che lo spingano verso caduta. Soprattutto immagino che avete parlato di crollo di petrolio. E qua scivoliamo intorno a 60, quindi un po' di meno, un po' di più, ma con questi prezzi anche dollaro scivola intorno a 60 rubli per un dollaro in Russia. E qua è difficile fare. Poi ci sono altri fattori, tra cui anche esterni, quindi situazione in Ucraina, sanzioni contro sanzioni. Settimana scorsa, proprio in quel giorno, Obama ha detto che invece di russi speravano di alleggerire sanzioni, ha detto che li facciamo più forti, infatti ha fatto verso Crimea, solo Crimea non la Russia, ma comunque annunciava quel giorno. Ecco, senta, secondo lei, perché molti si spingono a dire, attenzione, delle varie crisi anche in precedenza in Russia, crisi politiche, sono sempre scoppiate quando il prezzo del petrolio, che significa anche il prezzo del gas, perché ricordo che il prezzo del gas segue in maniera parallela e identica al prezzo del petrolio, e cioè le due principali, non dico uniche, non voglio essere irrispettoso, ma sicuramente le due di gran lunga principali voci dell'export russo vanno in crisi. Ecco, secondo lei la crisi da economico, finanziario, valutario potrebbe diventare anche politica per Putin? Ma prima di rispondere voglio dire che l'Europa ultimi anni cercava di scostarsi da quel prezzo di gas collegato al petrolio a contratti di spot, e quindi è riuscito qualcosa, tra cui la Russia stessa si è scostato un po' di contratti di gas verso, verso prezzo spot, ma ancora poco percentuale, quindi darei tanta ragione a lei che ha detto comunque sia petrolio sia gas, ovviamente dipende dal prezzo di petrolio. Primo, secondo, più di 10 anni la Russia parla che bisogna spostare dalla dipendenza di idrocarburi, di fare la sua tecnologia, nanotecnologia, altri campi, però non riesce a fare, quindi maggior parte di export ovviamente la quota di energia, e quindi chiaro che dipende. Se invece porterà alla crisi, dalla crisi economica alla crisi politica, non saprei, perché anche qua ci sono due trend contrari. Ci sono le voci che sono molto scontenti, soprattutto quelli che viaggiano all'Europa, perché adesso per cambiare rublo verso euro ci vuole molto di più, e quindi viaggiare all'estero diventa anche un po' costoso per quella cosiddetta media classe russa, e quindi quella lamenta. Però ci sono altra classe, cioè ci sono tanti russi che maggior parte magari stanno non medio, un po' più basse di classe media, perché classe media, diciamo, come nel senso europeo esiste, ma molto piccola, che invece solo consolidati intorno a Putin hanno detto non sappiamo neanche cosa sia dollaro e euro, a noi non è e quindi non compriamo in russi, prendiamo prodotti russi, eccetera, eccetera. E quindi questi due trend sono contrari, ma al momento, anche dopo il discorso di Putin giovedì scorso, sembra che la sua popolarità sta intorno al 70-80%. Sì, quindi è ancora altissima. Senta, una cosa, Yuchkin, ma secondo lei il governo russo, quindi Medvedev e Putin, si immaginava un insieme una tempesta perfetta come quella che sta avvenendo, cioè il prezzo del petrolio non per motivi russi, per motivo del braccio di ferro Arabia Saudita, paesi soprattutto dell'Arabia Saudita, Stati Uniti sullo shale oil, il prezzo del petrolio che cala, l'embargo e le sanzioni europee, il rublo che continua a precipitare, cioè non è andata anche oltre le intenzioni di Putin questa risposta all'Europa e agli Stati Uniti? diciamo che tempesta perfetta è stata assolutamente imprevedibile, e si vedeva anche dalla reazione, anche di salire 6.5 punti percentuali. Ah, beh, tassi di interesse. E questo è veramente per la prima volta che ho sentito, perché gradualmente a 1%, a 0.5% facevano anche ogni giorno, però così da notte è stato... Putin ha detto che va bene, quindi ha stabilizzato, tanti altri che contrario, perché dicono che hanno spaventato il mercato, perché è chiaro che con questi numeri inflazione prossimo anno già si prevede per 12-15%. 12-15%. Sì, quindi molto più di quello che pensavano 8-9. E quindi spaventato mercati, anche se da notare che Putin alla sua press conference ha parlato esplicitamente perché questi tassi, che ha detto chiaro che saranno i tassi alti, ma per i progetti strategici, quindi qualsiasi società che vuole fare qualcosa di innovativo e interessante, noi possiamo applicare tassi molto bassi, ancora vecchi, da 5-6%. Non so quanti possono prendere, sì, questo me lo chiedevo anch'io. Mi dica un'ultima cosa, ma secondo lei adesso, dopo che appunto la Banca Centrale Russa ha portato i tassi dal 10,5 al 17%, fermo restando appunto che l'anno prossimo la Russia si beccherà la recessione invece che la crescita e un'inflazione non al 7 ma verso il 10-12%, secondo lei la situazione tra virgolette si è stabilizzata, cioè fatto questo calo non dovrebbe peggiorare, o lei prevede nuove tensioni? Se pensiamo adesso di petrolio stabile intorno a 60, anche io prevederei leggero rialzo, ma non più di sopra 70 ovviamente, quindi comunque in questo rango, ma non dovrebbe crollare 50, il prezzo potrebbe rimanere più o meno stabile, per due ragioni, sia perché comunque Putin, non userei il termine con Putin si è spaventato, perché uno che spaventare è praticamente difficile anche per fare pressione. Però è comunque stato molto attento e giorno dopo ha raccolto tutti i businessmen, tutti gli oligarchi russi, quelli che contano in industria e privato, e praticamente ha detto siamo in situazione difficile per la Russia per diverse ragioni economici, politici, pressioni dall'estero eccetera, quindi vi chiederei piccolo aiuto sia di spostare i vostri capitali in Russia, e quindi parliamo ancora di deofshorizzazione, sia magari di private, sia cercare di, quando sarà a momento come è successo martedì, di cercare di vendere la vostra valuta che avete. Sì, di vendere dollari o euro e comprare rubli. Esatto. E così in questo caso ovviamente il rublo si rafforza. E hanno, quelli che hanno, però, sono stati, era chiuso e non hanno parlato, praticamente si poteva dire anche di no. Però ha detto, dicendo di no, poi praticamente tu perdi ogni privilegio che hai, o se avrai problemi con società non puoi chiedere più lo Stato aiuto, dice che lo Stato ti ha chiesto una volta e quindi non chiedere più lo Stato. Sì, questo insomma è molto difficile dire di no a Putin in generale. Senta, ma non ho capito, ma lei prevede che la situazione peggiori, migliori o resti sostanzialmente così? Situazione economica. Economica, ovviamente inflazione, spero che non si scivola molto alto, perché anche quello tasso che hanno detto, parlano adesso solo per un mese, due mesi, o comunque per brevissimo periodo, non per lungo. Se riescono poi a abbassare, la situazione si stabilizza. Io prevedo, non così come settimana scorsa, che erano veramente quasi tragiche, non sapevano come fare, stabilizzata ma sempre equilibrio. Stabilizzata ma verso stabile. Il basso. Stabilizzata ma verso esatto, il basso. Esatto. Allora, grazie Eugeni Yuchkin, appunto direttore di Partner Number One. Allora, qualcuno scrive: questa è la campagna di Russia e l'attacco finale della Merkel. Ora, noi abbiamo attaccato la Germania molte volte per la incapacità di esercitare una vera leadership in Europa e di capire quello che è il bene comune degli europei. Non sei grande solo perché sei forte, sei grande anche perché eserciti una leadership. Ma adesso dire che questa sia la campagna di Russia della Merkel. No, tra l'altro la Germania è proprio il paese che ha dovuto obtorto collo accettare queste sanzioni, ma è il primo partner commerciale europeo in Russia. E sappiamo dei vari incontri tra Merkel e Putin, ha sempre cercato di rappresentare in qualche modo un corridoio, una porta semiaperta per le trattative, quindi direi proprio di no. Guarda, di tutto possiamo accusare la Germania, tranne che insomma essere in qualche modo complici di questa situazione in Russia. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi la borsa e il Monte dei Paschi di Siena. Moltissimi di voi mi chiedono comunque. Il calo è leggermente, alla fine il titolo chiude leggermente meno in calo, comunque lascia sul terreno il 6,90% oggi a 46 centesimi di euro. Meteo. minuti. Allora, dicevamo della borsa. La borsa oggi sì, più 0,48% nel finale, Parigi più 0,30%, Francoforte più 0,80%, Londra più 0,30%, l'America più 0,44%, ma è inutile girarci attorno, poi ne parleremo con i colleghi di Radio Cori sulle 24 ore. Oggi la borsa vuol dire soprattutto se Monte dei Paschi di Siena meno 6,90%, e devo dire anche Seat Pagine Gialle che precipita dopo i valori dell'aumento di capitale. Allora, praticamente ha perso l'89% oggi Seat, vale 0,0022 centesimi di euro, 22 euro, 0,0022. Sono furibondi piccoli azionisti, e lo so, anche perché è una storia, diciamo, di una distruzione di valore e anche di un pompaggio di un titolo che dovremmo ripercorrere, ci metteremo in intere puntate. Ripeto, ricordo quando il titolo valeva 7 euro, 6 euro per azione, 4 euro e mezzo per azione. Doveva essere grande, diciamo, collettore e driver della new economy in questo paese. Vabbè, vabbè. Partiamo dal Monte dei Paschi. Che cosa sta succedendo al Monte dei Paschi di Siena? Perché insomma, cioè, ci sono nuovi accantonamenti forse per 3 miliardi, ma sono partite anche le voci, già le citavamo la settimana scorsa, di un possibile ricambio ai vertici, ossia Alessandro Profumo da un lato e l'amministratore delegato Fabrizio Viola dall'altro, visto che il consiglio di amministrazione si rinnova ad aprile. Devo dire che il mercato si è tenuto distante oggi anche dalla Cassa del Risparmio di Genova. Comunque, Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Marco, il microfono, forse abbiamo dei problemi oggi con tutte le linee di microfono, se mi fai leggermente una cortesia, provi. Sì. Ok, perfetto. Dicevo, sappiamo tutti che Monte dei Paschi, dopo la bocciatura degli stress test con la Cassa di Risparmio di Genova, deve fare un altro aumento di capitale, deve reperire risorse, va bene. Nulla di nuovo? Quindi vorrei capire perché già la settimana scorsa, ma oggi in maniera plateale, plastica, il titolo ha ripreso a essere venduto a mani basse. Ma sì, come dicevi, le incertezze crescono di giorno in giorno, nel senso che di vero, come accennavi, c'è questo aumento di capitale o comunque questa manovra di rafforzamento prescritta dalla BCE, perché siamo proprio prescritta una cura, quindi come dire, questa cosa è già nota ormai da fine ottobre, almeno 2 miliardi, il Monte ha detto faremo un aumento fino a 2 miliardi e mezzo, tendenzialmente quindi 2 miliardi e mezzo. Insieme a questo però ci sono altri elementi sulle svalutazioni, noi sappiamo che quegli stessi esami che hanno sono terminati con la richiesta di questo aumento di capitale porteranno un risultato bilancio che a questo punto potrebbe arrivare a 3-4 miliardi di rosso sul 2014. Questo evidentemente complica ulteriormente la situazione della banca, banca che adesso capitalizza in borsa meno di quello che è l'aumento stimato. E questo è il problema. Allora, cioè, la banca deve aumentare il capitale, cioè il suo capitale, per 2 miliardi e mezzo, come conseguenza anche di quanto richiesto dalla Banca Centrale, dall'Autorità Bancaria Europea, dopo l'andamento e il risultato degli stress test. In questo momento il Monte dei Paschi capitalizza poco meno di 2,4 miliardi. il che vuol dire che deve chiedere soldi per un valore superiore al valore attuale della banca, per cui hai voglia di dire un'azione, una vecchia azione, una nuova azione. Qui deve chiedere 2 miliardi e mezzo, ma ne vale, ne capitalizza 2 miliardi e 4. Questo potrebbe essere un grosso problema per l'aumento di capitale da un lato, ma dall'altro vorrei anche capire, perché bisogna capire insomma come verrà fatto e quale sarà la svalutazione, perché sono ripartite però anche le voci sui vertici. Allora, io, a me non interessa, non ho nessun rapporto con Fabrizio Viola, con Alessandro Profumo, se non diciamo di carattere professionale, però o c'è qualcosa di palese, oppure far saltare i vertici nel momento in cui c'è sotto un aumento di capitale con una banca sotto i riflettori attaccata non mi sembrerebbe una gran mossa. Cioè, o tu dai a loro la colpa di qualcosa, o è una mossa da pazzi, perché crea ancora maggiore incertezza. Allora, di nuovo in diretta Marco Ferrando, le voci di un ricambio ai vertici e soprattutto come si fa a fare un aumento di capitale quando l'aumento che devi fare è più grande del capitale tuo. Sì, beh, le voci sul ricambio dei vertici sono naturali, nel senso che evidentemente questa volta più che mai un vertice che si presenta all'assemblea con due aumenti di queste dimensioni, come dire, sul groppone, nei fatti è in dubbio. E Alessandro Profumo, nell'ultima intervista che ha rilasciato settimana scorsa, ancora ha ripetuto che di fatto le finestre disponibili per l'aumento sono due: o a marzo, il che vuol dire con un aumento portato da questo vertice, o a maggio con il vertice nuovo, che intendiamoci può anche vedere una conferma evidentemente ai vertici di Profumo e Viola. Questo, dicevamo, è un elemento di incertezza che si aggiunge ad incertezza. C'è anche da dire che per avere l'aumento bisogna avere il bilancio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questo momento, con una situazione così confusa come quella che stiamo vedendo, effettivamente pensare di essere in tempo per lanciare un aumento da 2 miliardi e mezzo, questo l'ammontare del momento, a marzo, effettivamente i tempi sono molto tirati. Non dimentichiamo che banalmente va convocata un'assemblea, ormai siamo a fine dicembre, vorrebbe dire che va convocata, diciamo, al più presto, serve un mese, quindi effettivamente pensare che possa venire a marzo ormai è veramente difficile. Sì, e la situazione si complica. Devo dire che su questo il mercato si sta interrogando molto anche sugli accantonamenti che dovrà mettere, ma a questo punto oggi abbiamo visto anche sospensioni per eccesso di volatilità, non per eccesso di ribasso ma per una volatilità eccessiva del titolo. Ecco, sugli accantonamenti, le ipotesi più accreditate? Ma sì, dunque, gli accantonamenti sono stata la materia su cui la BCE ha fatto gli esami, ed è la materia che ha generato la richiesta. L'accantonamento sono i soldi che una banca mette da parte per diciamo per eventualità peggiori, vorrei spiegarlo a tutti, cioè se tu hai delle esposizioni rischiose, o meglio poi c'è tutto un regolamento, c'è Basilea 3, insomma, devi avere dei soldi nel caso altri soldi che hai prestato non ti tornassero più indietro, diciamo così, per cui gli incagli diventassero sofferenze. Prego. Esattamente. Quindi questo esame condotto quest'anno ha fatto sì che venissero fuori come dire, accantonamenti inferiori a quanto non fossero necessari. Di lì è nato appunto questo gap di capitale di oltre 2 miliardi e quindi la necessità di un aumento. Se non che le perdite e come dire le rettifiche sui crediti, gli accantonamenti di cui parlavi, vanno messi anche a bilancio, e complessivamente la BCE ha visto una carenza di oltre 4 miliardi. Se la BCE chiederà di metterli a bilancio, questo fa sì che, come dicevamo, visto che i primi tre trimestri si sono conclusi già con un rosso di un miliardo, il bilancio 2014 possa chiudersi con 3 o addirittura 4 miliardi, e questo evidentemente potrebbe alla lunga avere un impatto sul capitale. E staremo a vedere, ma si preannuncia un gennaio, un fine 2014 e un 2015 tutto in salita per il Monte dei Paschi di Siena, perché i numeri appunto e il cali di borsa chiaramente rischiano, non voglio essere darmi il gufo da solo, ma rischiano di avvitare ulteriormente la situazione, perché più cala il tuo valore di borsa, più cala la tua capitalizzazione di borsa, più tutto il percorso diventa Difficile, prego Marco. Sì, non dimentichiamo che gli stessi vertici non hanno nascosto che sullo sfondo, e neanche tanto sullo sfondo, rimane l'ipotesi di un'aggregazione. È chiaro che più si cala, più si vale di meno, meno certo. Si vale, e anche pensare a eventuali matrimoni diventa più facile. Sì, questo hai fatto bene a ricordarlo, perché insomma, obiettivamente, se tu devi fare un aumento di capitale che vale più di quello che vali tu complessivamente, ragazzi, inizia a essere dura. Comunque, vedremo. Grazie intanto a Marco Ferrando, e noi invece continuiamo con la borsa, con gli altri titoli di borsa. Vedo moltissimi messaggi, sì, anche di quell'ospite, devo dire che fu particolarmente sfortunato, adesso la metto così, adesso non mi ricordo il nome del gestore, però non lo citerei comunque per un rispetto, che disse: no, ma io vedo bene, compro Monte dei Paschi prima che iniziasse il crollo, anche in seguito agli stress test. Però la dimostrazione è che i nostri ospiti hanno idee più diverse. Delle volte qualcuno mi chiede se lui suoni all'angolo della strada l'organetto. Non lo so se poi le abbia comprate. Certo che se le ha comprate, ragazzi. Va bene, la borsa, il resto della borsa. Andrea Fontana, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dai, andiamo avanti fino alla fine dell'anno con Monte dei Paschi e con Seat Pagine Gialle. Seat... Sì, per Seat oggi un lì l'aumento di capitale c'è già stato, prego. Sì, l'aumento di capitale di fatto è scattato oggi, è stato formalizzato oggi, e un crollo atteso quanto tardivo, perché da tempo si sapeva che il piano di ristrutturazione avrebbe condotto a consegnare una quantità enorme di azioni ai creditori di Seat Pagine Gialle, e quindi che si sarebbero trovati in mano il 99,75% del capitale, quindi l'azionariato che esisteva fino a venerdì si è ridiluito fino allo 0,25%. Fino a venerdì quindi Seat quotava molto basso, ma quotava oltre quelli che erano invece i reali valori previsti dalla ristrutturazione, e oggi questo crollo riporta Seat nei suoi valori dovuti legati a questa operazione, c'è cioè una capitalizzazione intorno ai 150 milioni. Certo, fa effetto vedere meno 89% e un valore del titolo che vale. Sì, c'è un ascoltatore che mi chiede: avrebbe un senso comprare Seat domani? Sì, cioè, rimbalzo nella vita non si nega neanche al gatto morto. Non che io stia paragonando Seat al gatto morto, sto dicendo che in inglese c'è questa espressione per cui. Cioè il rimbalzo del gatto morto, nel senso che tu lanci un gatto da un grattacielo e poi rimbalza quando atterra, però insomma non è un vero rimbalzo, non lo so, io insomma, poi tu a uno piace giocare in borsa, altri possono amare il rischio in altro genere, comunque qua non diamo consigli. Dicevo, i titoli che oggi si sono mossi meglio invece, Andrea, Pop Emilia Romagna più 3,70, Autogrid più 3,60, Moncler più 3, Gitec più 2,90, Prismian più 2,5, Mediolanum più 2, Tods più 1,90, Intesa San Paolo più 1,80 come A2A, UbiBanca più 1,5. Oggi infatti non è andata male per i bancari, è andata male per alcuni bancari, ma non per tutti i bancari. UbiBanca più 1,5, bene anche Banco Popolare più 0,90%. Otto e sette minuti, di nuovo con Sebastiano Barisoni, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa. Allora, Andrea Fontana non è in collegamento, non riusciamo a sentire Andrea Fontana, intanto vi do i migliori e i peggiori mentre ripristiniamo la linea con i colleghi di Radio Cuore Sole 24 Ore. Il miglior titolo è Soft Strategy più 9,97, poi Iniziative Bresciane più 4,5, Cofide più 4,30, Bolzoni più 4%, peggiori appunto Seat Pagine Gialle di cui abbiamo appena parlato, e poi Monte dei Paschi ampiamente analizzato, meno 6,90%. C'è Andrea Fontana. Andrea, Generali. Sì, Generali ha un po' sofferto soprattutto nel pomeriggio, chiudendo con una perdita limitata, per la verità allo 0,1%, arrivata a perdere anche mezzo punto percentuale dopo la comunicazione di questi due soci che si erano riuniti in un patto che insieme raggruppava il 2,1%. I due soci sono segnatamente Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e Fiorat, che riuniva una serie di investitori del nord-est che ormai da qualche anno erano uniti in questo patto. Naturalmente lo scioglimento del patto può comportare che qualcuno dei soci possa alleggerire la sua posizione nei confronti delle generali, e per questo il mercato ha un po' penalizzato il titolo portandolo, lasciandolo sotto quota 17 euro. L'ultimo titolo è la Popolare Emilia Romagna, che oggi il lusso si è mosso bene, ma sappiamo che il lusso insomma ha perso molto terreno in queste settimane. La Pop Emilia Romagna ha fatto più 3,70. Sì, sta vivendo un periodo di buon recupero la Popolare dell'Emilia Romagna. Oggi è stata la migliore dei bancari. La scorsa settimana era stata una settimana di transizione, e questo titolo è sicuramente la società che viene vista da molti come un possibile operatore attivo nel caso di un consolidamento del settore bancario nel 2015. Evidentemente qualcuno sta un po' prendendo posizione verso questo istituto. Si è parlato più volte di un istituto che potrebbe lanciare i suoi interessi nei confronti di Carige o di altri istituti popolari, sì. Staremo a vedere nel 2015, ma spesso gli investitori stanno prestando attenzione a questo titolo. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere Sole 24 Ore. Adesso, come promesso, apriamo una lunga pagina sulla legge di stabilità, o la legge finanziaria come si chiamava una volta, al di là del fatto che sia arrivata adesso alla Camera. In realtà dovrebbe essere varata entro domani mattina senza voto di fiducia. Ricordo che il maxi emendamento votato dal Senato nella notte tra venerdì e sabato è composto da un solo articolo con 755 commi. Recepisce le modifiche apportate dall'esecutivo in base ai lavori delle commissioni parlamentari. Parliamo prima della legge di stabilità in senso generale, poi avremo un approfondimento sulla parte più di carattere fiscale, sia la reverse charge che le non coperture e il rischio che scattino le procedure di stabilizzazione. Che in gergo si chiamano clausole di salvaguardia. Comunque, 32 miliardi di euro di manovra con 5 miliardi in deficit, è incorporata però in questa manovra anche la parte richiesta dall'Europa, quindi la correzione dello 0,3% che vale 4 miliardi e mezzo, e a questo scopo è stata ridimensionata di 3 miliardi e 3 la dotazione del fondo taglia tasse. Ricordo le principali misure della legge di stabilità: la totale deducibilità dell'IRAP dal costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato, possibilità di anticipare il 50% del TFR. In busta paga si paga però la tassazione ordinaria, quindi la parte più alta dell'aliquota. Conferma per il 2015 del bonus IRPEF a 80 euro per i redditi fino a 26.000 euro. Proroga al 2016 del blocco degli aumenti delle aliquote locali, ma anche qui iniziamo con i lati oscuri: non si capisce da dove arriveranno queste risorse, il mancato gettito ai comuni e agli enti locali. Questo in attesa dell'introduzione della local tax. Aumento della tassazione sui rendimenti dei fondi pensione dall'11,5% al 20%, e poi la reverse charge, di cui parleremo in maniera apposita. 10 miliardi e mezzo devono arrivare dalla lotta all'evasione e all'aumento delle tasse, 16 miliardi da minori spese, ministeri, trasferimenti agli enti locali, 5 miliardi dall'aumento del deficit, che infatti va al 3% secco. Dove vanno le spese? 21 miliardi per bonus IRPEF, ammortizzatori sociali, spese inderogabili e quant'altro, e poi ci sono minori entrate per 11 miliardi e 21 più 11 fa 32. Almeno su questo ci siamo tutti, taglio IRAP, eco bonus e quant'altro. Siamo in collegamento con il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Buonasera Fabrizio. Ciao, buonasera. Allora, il commento ieri, però lo facciamo ascoltare, del ministro Padoan. Redditi nelle tasche delle famiglie, gli 80 euro finalmente permanenti come era stato promesso, per le imprese, un taglio di tasse che ha pochi precedenti nella storia del Paese, molti incentivi ad assumere, risorse per la riforma e il Jobs Act. Quindi in prospettiva più reddito, più domanda, più consumi, più lavoro. Con l'Europa abbiamo un ottimo rapporto e l'Europa sa benissimo che stiamo facendo un grandissimo sforzo di riforme strutturali che porteranno più occupazione e investimenti in un contesto molto difficile, purtroppo sono 3 anni di recessione, l'anno prossimo saremo in crescita positiva. Le privatizzazioni vanno avanti, coinvolgono varie imprese partecipate, dall'Enel, per il quale le operazioni saranno a breve, alle poste, alle ferrovie. Ricordo che le privatizzazioni servono a 2 cose, naturalmente risorse per l'abbattimento del debito, ma anche, direi soprattutto, esposizione al mercato, quindi maggiore efficienza nella fornitura dei servizi da parte delle imprese partecipate. Allora Fabrizio Forché, un giudizio a cavallo tra economia e diciamo e politica di questa legge finanziaria. Oggi molti giornali fanno notare che per esempio diventa conveniente con il nuovo bonus assumere a tempo indeterminato, praticamente assumi 4 dipendenti ma ne paghi 3 visto che hai uno sconto, sì, che arriva fino al 30%. Esatto, fino a un massimo di 8.000 euro, ma conviene anche se la retribuzione lorda di 40.000 euro cioè risparmia l'imprenditore o il datore di lavoro un 16% rispetto a un contratto a termine. Chiaro che poi uno assume a tempo indeterminato se ha prospettive di crescita, non solo per il risparmio. Però il giudizio sulla legge di stabilità. È una legge che è una buona legge se siamo d'accordo che con una legge finanziaria e con l'attuale situazione dei conti pubblici italiana non è che puoi dare una scossa all'economia come qualche volta ci diciamo, insomma. Realisticamente è stato fatto quanto si poteva fare, ma insomma non aspettiamoci da qui una spinta all'economia nel prossimo anno. Ecco, qual è la promessa diciamo più mantenuta secondo te, che poi scrive su Sole 24 Ore, sei capo anche della redazione romana, quindi hai ben presente il polso diciamo anche degli equilibri della maggioranza, degli equilibri parlamentari, e qual è la cosa forse più disattesa? No, guarda, insomma, la manovra ha centrato i suoi 3 grandi obiettivi principali, poi noi possiamo discutere di tutti i dettagli e nei dettagli, come sai, abbiamo sollevato anche molte critiche a questa manovra, però insomma le 3 grandi misure di questa manovra sono l'IRAP, detassazione della parte lavoro sull'IRAP, l'eliminazione dei contributi sulle stabilizzazioni sui contratti a tempo indeterminato e la conferma del bonus 80 euro. Insomma, questa manovra è in queste 3 misure. Ora su queste 3 misure il giudizio è molto chiaro: IRAP bene, detassazione bene, 80 euro conferma di un impegno politico, ma che è un errore madornale. Perché è un errore madornale? È un errore madornale perché utilizzi 10 miliardi e nel corso della discussione in Parlamento credo anche il governo e i rappresentanti del governo hanno capito che cosa significano 80 miliardi da poter gestire, e li cristallizzi in un intervento che si è visto che nel corso di quest'anno non ha avuto benefici sull'economia. Quante cose si potevano fare con 10 miliardi? Con 10 miliardi. Quindi tu dici è un elemento più di carattere politico per non dover far retromarcia e spiegare all'elettorato che era stata una mossa spot, cioè e subire l'accusa di una mossa così mordi e fuggi elettorale, però ti costa cara perché quei 10 miliardi potevi utilizzarli per esempio per la tassazione di altro genere, per ridurre la tassazione. Sì, questo è abbastanza evidente a tutti, credo anche Padoan nel momento in cui difende quella misura lo fa perché politicamente tornare indietro era improponibile. Credo che se si tornasse indietro appunto a marzo dell'anno scorso, forse lo stesso Renzi avrebbe dei dubbi su quella misura. È vero che oramai era stata presa, tornare indietro era oggettivamente molto difficile, però non ha avuto gli effetti che lo stesso Renzi sperava. E quindi diciamo la cosa che ti convince di meno sono gli 80 euro, ma non come misura in sé, ma per il costo che ha in una finanziaria da 32 miliardi ne assorbe 10 praticamente. Ma sì, è evidente insomma che è la misura più importante di questa manovra ed è una misura che per ora non ha rilanciato i consumi come avrebbe dovuto fare. Poi nell'analisi delle cifre di questa manovra, che tu hai dato nel dettaglio con grande precisione, emergono altri elementi di riflessione. I tagli di spesa alla fine sono deludenti, perché fra maggiori entrate e tagli di spesa il bilancio è: le maggiori entrate sono di circa 10 miliardi, le minori entrate di 11 miliardi, siamo lì, quindi nel complesso dell'intervento evidentemente non c'è una riduzione di spesa. Ma che ne è stata di Cottarelli, non l'uomo, penso che l'uomo sia rientrato a Washington, se ho letto bene, però diciamo del suo lascito, del Cottarelli legacy, ma c'è qualcosa o no? E quella è la delusione di questa manovra. Come tutti i governi recenti, dopo grandi studi e analisi sulla spesa pubblica, poi quando si tratta di intervenire c'è da prendere una responsabilità politica su tagli che sono inevitabilmente, poco che non hanno il consenso dell'opinione pubblica, la politica in qualche modo fa un passo indietro e trova altre soluzioni che non sono però soluzioni chiare e definitive, in favore anche poi della riduzione fiscale, della pressione fiscale, perché è chiaro che tu la pressione fiscale la riduci solo con interventi sulla spesa pubblica molto chiari. E fammi dire un'altra cosa: in realtà quando parliamo di riduzione della spesa pubblica molto spesso oggi nasce subito l'opposizione: attenzione, perché tagliare la spesa pubblica comunque è fare un intervento recessivo. Allora qui ci dobbiamo mettere d'accordo, però, perché qui non abbiamo nemmeno fatto uno spostamento di spesa pubblica da spesa improduttiva, cioè da spesa in conto corrente a spesa in conto capitale, o perlomeno l'abbiamo fatto in maniera molto limitata. Se non vogliamo dire che l'equazione giusta è tagliare spesa pubblica per tagliare tasse, almeno diciamo che bisogna tagliare spesa pubblica corrente per investire, per fare investimenti pubblici. Anche chi sostiene che la ricetta è quella keynesiana degli investimenti pubblici, ma facciamolo allora, spostiamo spesa da una parte verso la spesa per investimenti. E la spesa per gli investimenti in questa manovra oggettivamente non c'è. C'è la spesa corrente, e come faccio spesso l'esempio, qualunque manager conosce la differenza tra la spesa corrente e invece una spesa per investimenti. No, non sono d'accordo con gli ascoltatori che dicono: ah, siete sempre a criticare. Mi sembra che Fabrizio Forché abbia ricordato gli elementi positivi, appunto IRAP e la parte di decontribuzione per i neoassunti, gli 80 euro. Che a chi mi dice per voi sono poco perché siete ricchi, no, guardi che gli 80 euro sono una misura più che benvenuta. Il problema è quanto costa questa misura in una finanziaria che è tutta, diciamo, obbligatoriamente col braccino corto. Allora, se tu paghi un terzo delle risorse che usi vengono per gli 80 euro, forse ti chiedi se questa misura non potesse, o meglio, se quei 10 miliardi non potessero essere utilizzati per un'altra misura. Sul fronte del taglio della spesa pubblica sono d'accordo, in particolar modo sul renderla più produttiva. Ripeto, investimenti, nessuno vuole tagliare le pensioni o gli stipendi del pubblico impiego, sui dirigenti possiamo ragionarne, però attenzione che la spesa corrente, la spesa per beni intermedi per esempio, resta a 136 miliardi di euro, cioè gli approvvigionamenti della pubblica amministrazione, tant'è che la pressione fiscale complessiva quest'anno va dal 43,4 al 43,3%, quindi sostanzialmente resta invariata, anche perché poi è prevista in crescita nel 2016. Grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore Traffico, e poi con Gianni Trovati, Star Reverse Charge e queste clausole di salvaguardia che mi terrorizzano, perché se non vengono reperiti i soldi stimati poi scattano degli aumenti obbligatori. Minuti. Allora, Gianni Trovati. Buonasera. Buonasera. Mentre Fabrizio Forché ha avuto l'onere e l'onore di commentare a livello politico ed economico le scelte, diciamo, politiche di questa manovra economica, a te è l'onere e basta, senza onore, di parlare dei rischi. Allora, che cosa sono le possibili trappole fiscali come conseguenza soprattutto degli accordi europei che prevedono le famose clausole di salvaguardia, e che cos'è la reverse charge? Allora, siamo sempre al punto di partenza, nel senso che noi ci portiamo dietro come paese questo fardello crescente delle clausole di salvaguardia. La clausola di salvaguardia funziona in questo modo: diciamo all'Europa, noi abbiamo previsto una serie di misure che, se per qualche ragione non riescono, spending review e altre cose, saranno sostituite da aumenti di accise e di aliquota, in particolar modo sull'IVA. Cioè, se tu non riesci a trovare copertura, in automatico, senza possibilità di scelta, scatta l'aumento dell'IVA che può accise. Portare in tre anni l'IVA addirittura all'aliquota ordinaria al 25%. 5,5%. Speriamo di no, Speriamo di no, per carità di Dio, certo, però è scritto in manovra e può far salire sostanzialmente di 3,5 punti l'aliquota dell'IVA e ancora prima può far salire le accise, quello che noi paghiamo al distributore. Oggi la benzina, il diesel sono particolarmente bassi, ma potrebbero ritornare alti per aumenti di carico fiscale per 1,7 miliardi già quest'anno. Perché? Perché appunto, qui arriviamo al secondo aspetto, la manovra introduce una serie di misure relative al reverse charge, che chiamiamolo in italiano l'inversione contabile. Sostanzialmente, se io sono un fornitore della pubblica amministrazione, gli vendo un bene o un servizio, lo fatturo 100 più IVA e la pubblica amministrazione paga a me l'IVA che poi io sconto nel classico giro dell'IVA. Con l'inversione contabile invece io non fatturerò più 100 più IVA, fatturerò solo 100, l'IVA la PA non me la dà ma la gira direttamente all'erario. La stessa inversione contabile funzionerà per i fornitori della grande distribuzione. Questo cosa comporta? Comporta da un lato che tutti questi fornitori non avranno più crediti IVA da compensare con i debiti IVA, perché lo Stato, anche da questo punto di vista, è un pessimo pagatore, quindi saranno tutti in credito con lo Stato. Ma soprattutto, quando si va a toccare l'IVA, bisogna chiedere il permesso all'Europa, perché l'IVA è il pilastro fondamentale, diciamo, di finanziamento dell'Unione Europea. Permesso che l'Europa dà con i suoi tempi, con i suoi modi e soprattutto non è scontato. Sì, chiariamo che la reverse charge sull'IVA ha un obiettivo anti-evasione. Anti-evasione, nel senso che poi cosa succedeva? Che in alcuni casi tu l'IVA non la versavi. Certo, poi. Certamente, ha un obiettivo anti-evasione. Se ci pensa direttamente la pubblica amministrazione a versarla all'erario, è presumibile che non se la trattenga lei. Beh, almeno è una partita di giro, nel senso che poi... Certamente, il problema è che qui, come sempre, pagano i contribuenti onesti, nel senso che il fornitore della pubblica amministrazione, che è un'impresa commerciale, ha IVA a debito, IVA a credito, ora avrà solo IVA, avrà sempre più IVA a credito e sempre meno IVA a debito. L'IVA a credito è un credito che tu hai nei confronti dello Stato che ti deve pagare e ti paga con i suoi tempi. Abbiamo visto, lo abbiamo pubblicato sul giornale di domenica, che in un anno è sceso di 2,5 miliardi l'IVA pagata, rimborsata dallo Stato, quindi un altro freno alla liquidità oltre alla crisi dell'economia, eccetera. Il problema è che se la UE per qualche ragione non darà il via libera a queste misure che appunto dovrebbero portare, per quanto riguarda quella con la PA, 1,7 miliardi, gli 1,7 miliardi che non recuperiamo da lì li portiamo noi quando andiamo al distributore. Con le clausole di salvaguardia e quindi l'aumento delle accise. Esatto. Ecco perché tutto si tiene. Ed ecco perché appunto anche perché l'introito che il governo si aspetta da questa misura, appunto, sono 1,7 miliardi, è un introito solo per la parte con la PA. Solo per la parte con la PA, certo. Avrà infatti l'effetto di rallentare ulteriormente, questo è chiaro, possiamo dire tranquillamente, i rimborsi IVA alle imprese. Già quest'anno i pagamenti sono scesi di 2,5 miliardi, come non c'è dubbio, non c'è dubbio. E soprattutto poi c'è tutta la parte spending review che è ancora scritta nella manovra, ma tutta da attuare, e basta vedere la vicenda di questi giorni delle province per capire quanto sarà difficile. Va bene, va bene, va bene. Grazie anche a Gianni Trovati. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci risentiamo domani alle 17 per un'altra puntata di Focus Economia.